Benji, only a Benji. Sognare con molta decisione quando inizia l'azione, sono password. Ciuffo. Ciuffo rosso. Naso all'insù. Ciuffo. Password ok. Ciuffo rosso. Camice bianco. Ciuffo. Ciuffo rosso. Stivaletti da schianto. Ciuffo. Ciuffo rosso. Perché ti piace così? Dalla porta segreta della tua libreria sbuchi come un folletto vispo, più che sicuro e con una meta. Quando poi sei contento ti frulla un'idea e ti metti a pasticciare fra i tuoi alambicchi in trincea. Ogni tuo esperimento ha una sua traversia che si scontra immancabilmente con l'emergenza di quel momento. Nel laboratorio di Dexter ci sono mille diavolerie, tra errori ed esplosioni prendo forma le stramberie. Per questo appena sorridi sembri un bebè. Quando tu scendi in pista siedi alla regia e diventi così in un attimo l'indiscusso protagonista. Nella ogni realtà. Ogni giorno andare a scuola Giaco è come fosse un'avventura. Giaco, zu, zu, il preside del bidello contro Giaco. Ti metteranno spesso in mezzo ai guai. Giaco, due, due, ripeti sempre tutto a chi non ti ascolta mai. Chi non ti ascolta mai. Ogni giorno ti si accende una luce col tuo spirito audace. Affronti ogni realtà. Sei tu che vivi il mondo come vuoi. Non cambiare mai. Sei tu che guardi il mondo. Giaco, due, due, ripeti sempre tutto a chi non ti ascolta mai. Chi non ti ascolta mai. Ogni giorno ti si accende una luce con tuo spirito audace. Affronti ogni realtà. Giaco, due, due, ripeti sempre tutto a chi non ti ascolta mai. Chi non ti ascolta mai. Ogni giorno ti si accende una luce col tuo spirito audace. Affronti ogni realtà. Giaco, due, due, ripeti sempre tutto a chi non ti ascolta mai. Chi non ti ascolta mai. Ogni giorno. Non ragiona più, si trasforma. di Le Pen al mondo uno ce n'è. Sempre pronto all'avventura lui è. Un tesoro al sicuro non è se ce li attorno Le Pen. Oh Le Pen, con il rischio gioca sempre perché per lui nulla di impossibile c'è. Sempre molto audace, questo è Le Pen. Dove stia Le Pen nessuno lo sa, ma lui certamente comparirà. Dove c'è un tesoro se lo vorrà, allora lui arriverà. L'ispettore lo sa, e il tesoro quindi sorveglierà. Ma Le Pen allerta, sempre lui starà. Le Pen, Le Pen, incorreggibile. Le Pen, Le Pen, inafferrabile. Le Pen, Le Pen, ineguagliabile sei. Inafferrabile. simpatici insieme. Gli piace starsene in fanciolle, fa di tutto per non lavorare mai. Picchia picchierello, picchia picchia passerello. È un picchio buffo divertente, che fa soltanto quello che gli va. La sua presenza è prorompente, per simpatia e vivacità. Salta picchierello con quel ciuffo rosso, picchio passerello, ride più non posso. Salta picchierello, batti col tuo becco, sei come un martello, magico e perfetto. Picchia picchia tiki tiki tiki, col tuo becco tiki tiki tac. Batti picchierello, chi ti fermerà? Salta picchierello, ride più non posso e fai ridere anche noi. Picchierello, picchia picchio passerello. Salta picchierello, picchierello, picchia picchio passerello. Picchia picchierello, picchia picchio passerello. Salta picchierello, picchierello, picchia picchio passerello. Picchia picchierello, picchia picchio passerello. Picchia picchierello, picchia picchio passerello. Un picchierello tutto il giorno è sempre pieno di sorprese e di novità. Non c'è né un attimo di calma, tutto arriva e tutto parte a gran velocità. Perché è furbissimo, caricatissimo. C'è un picchio buffo e divertente, che fa soltanto quello che gli va. La sua presenza è prorompente, per simpatia e vivacità. Salta picchiarello, con quel ciuffo rosso, picchio passerello, ride più non posso. Salta picchiarello, batti col tuo becco, sei come un martello, magico e perfetto. Picchia picchia tiki tiki, col tuo becco tiki tiki tac. Batti picchiarello, chi ti fermerà? Salta picchiarello, ride più non posso e fai ridere anche noi. Salta picchiarello, batti col tuo becco, sei come un martello, magico e perfetto. Picchia picchia tiki tiki, col tuo becco tiki tiki tac. Batti picchiarello, chi ti fermerà? Salta picchiarello, con quel ciuffo rosso. Picchiarello, ride più non posso e fai ridere anche noi. Fai ridere anche noi. Fai ridere anche noi. Fai ridere anche noi. Salta. Sopra il mondo.